puntata. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e undici minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Torneremo a parlare della crescita italiana dopo la revisione, per fortuna rialzo del PIL operata ieri dall'Istat, e anche però le polemiche innescate dalle dichiarazioni del commissario europeo Kaitainen, che ha detto in Italia non ci sono miglioramenti significativi, la situazione economica in Italia non migliora, la verità è che c'è una deviazione dal saldo strutturale e tutti gli italiani dovrebbero sapere qual è la vera situazione economica in Italia, frase che per carità poi riascolteremo, giudicata molto molto critica, eccessivamente critica da molte persone e molte esponenti del governo, la risposta ieri anche del ministro Padoan, la non risposta era una risposta abbastanza eloquente, quando Padoan ha detto preferisco non rispondere, oggi anche dichiarazioni del Presidente del Consiglio Gentiloni, e una piccola correzione da parte di Bruxelles che dice attraverso il portavoce l'Italia sta vedendo una ripresa che si rafforza ma di fronte sfide persistenti alla luce del suo elevato debito. Parleremo anche del debito italiano perché la Banca d'Italia oggi segnala come a settembre sia risalito a 2.283 miliardi di euro, un aumento di 4,4 miliardi, ha riflesso il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, in parte compensato dalla diminuzione delle disponibilità liquide del tesoro. Ora, per carità, sappiamo che quando tu hai un deficit che c'è, perché per quanto in riduzione c'è un deficit, cioè spendi più di quanto incassi, è chiaro che come in una famiglia il tuo debito tende ad aumentare. La cosa però che evidentemente non sta funzionando è il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche. Qui torniamo al tema della spending review sempre annunciata. Lo dico anche perché in questo momento noi possiamo, e ne parleremo, noi possiamo metterla come vogliamo, ma abbiamo un vantaggio sul debito enorme dovuto ai tassi bassissimi, inesistenti, negativi in alcuni casi, con cui collochiamo BOT e BTP. Per cui se continua ad aumentare il debito, anche in un periodo in cui ci costa meno finanziare il debito e quindi paghiamo meno di interessi, è come se una famiglia, tornando all'esempio di prima, ho capito che ha il deficit, ma continuasse ad avere un debito con la banca che aumenta nonostante la riduzione di quello che paga per il mutuo, mutatis mutandis, insomma, per farci capire a tutti. E gli interessi che tu paghi per il mutuo, o meglio per il debito che noi abbiamo con contratto in questi anni, sono in netto calo, eppure questa famiglia che si chiama Italia continua a vedere aumentare il debito. Ti chiedi perché e scopri che le spese dell'amministrazione pubblica, cioè di quelle che speravi essere più comprimibili, evidentemente non sono così compresse. Anche di questo parleremo, dopodiché temi più di mercato, e mi riferisco ad Astaldi che oggi di nuovo soffre pesantemente in borsa, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi perché c'era stata anche un'anticipazione del Sole 24 Ore, ieri confermato un piano di rafforzamento patrimoniale, cioè in parte aumento di capitale per 200 milioni di euro e altri 200 sotto forma di strumenti finanziari. E fatto sta che in borsa il titolo continua a perdere, ha perso quasi il 60% negli ultimi 5 giorni, portando la capitalizzazione di borsa ad appena 227 milioni, il che vuol dire anche in questo caso che l'aumento di il rafforzamento patrimoniale vale quasi due volte quello che è il valore di borsa. Tra l'altro il gruppo ha diffuso ieri risultati trimestrali inferiori alle attese, ha rivisto a ribasso tutte le stime, complice anche il Venezuela, sapete che Venezuela è andato in default tecnico ieri, default selettivo per essere precisi, e Astaldi ha diverse partecipazioni, diversi asset proprio in Venezuela. Comunque la società nei primi nove mesi dell'anno ha registrato perdite per 88 milioni contro i 55 milioni di utile di un anno fa, Questo dopo la svalutazione di circa 230 milioni di euro delle sue partecipazioni in Venezuela. E quindi è chiaro che un grosso peso l'ha avuto l'esposizione verso Caracas. Ricordo che Astaldi è uno dei principali gruppi in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle costruzioni ed infrastrutture, ha ricavi per 3 miliardi di euro. Parleremo appunto anche di economia per un festival importante e infine parleremo di produttività. Perché? Perché l'Istat oggi fotografa una produttività che è scesa anche nel 2016. Pesa l'indice complessivo ha fatto meno 0,4%, interrompendo una fase positiva di aumenti. La produttività del lavoro in Italia è la più bassa a livello europeo, è salita dello 0,3%, mentre in Germania è salita dell'1,5% in questi due decenni, e della Francia 1,4%, Regno Unito 1,5%. Ne parleremo anche perché la produttività è delle volte un mantra che si usa, ma poi va riempito anche di un significato. È la misura, diciamo, della crescita, del valore aggiunto di un'economia, che di solito è dovuta al progresso tecnico, tecnologico, ai miglioramenti nell'efficienza e quant'altro. Pesa proprio il ribasso della produttività sul lavoro, è scesa in un anno, nel 2016, dell'1%. Anche di questo parleremo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta sul canale Facebook. Andiamo con le notizie in breve. Partendo dalla borsa, per quello che riguarda Milano il calo dello 0,50%, invariata Parigi, meno 0,40% Francoforte, Londra meno 0,50%, Dow Jones meno 0,40%, bene oggi in recupero rispetto ai cali della settimana scorsa, Leonardo ex Finmeccanica più 3,30%, Biper Banca più 2,40%, BPM più 2,10%, Telecom più 2,10%, Unipol più 1,40%, Unipol 6 più 1,20%. Fronte opposto invece vede, da questo punto di vista, un insieme di titoli che sono in calo, ma segnalo, qualcuno di voi mi sta chiedendo sul fronte dell'andamento dell'euro, ma l'euro è a quota 1,17 sostanzialmente e 95, sì, è un po' in rafforzamento da questo punto di vista. Ma dicevamo, i titoli in negativo: Salvatore Ferragamo meno 4,12, Campari meno 3,11, Buzzi Unice meno 2,5 come Saipem, Recordati meno 2,30, Exor meno 2,15, CNH meno 2,10, Terna meno 1,80 come Fiat Chrysler, l'1,60 lo perde Prismian, Tenaris, l'1,5 il calo di Eni e Snam Rete Gas. Astaldi è il ci sono due peggiori titoli, uno è il Sole 24 Ore meno 26%, l'altro è Astaldi meno 25%, Tiscali meno 17,30%. Bene invece RCS Media Group più 6%, Elen più 5,40%, Leonardo più 3,70%. Prima che me lo diciate, parleremo anche del Sole 24 Ore nel commento di borsa, come sempre facciamo quando il titolo è in evidenza o tra i migliori o tra i peggiori. Andiamo avanti con i dati di carattere internazionale. Allora, il Giappone, il PIL nel terzo trimestre fa più 0,3%, consumi ancora deboli, anche se è prevista una ripresa della domanda, va comunque consolida le stime il PIL giapponese, l'incremento su base annua dell'1,4%. Buone notizie per Airbus, che ha firmato un accordo per la vendita di 430 aerei, è l'accordo più grosso mai firmato dal consorzio Airbus, che ha sede a Tolosa. 430 aerei per la società americana Indigo Partners, per un totale di quasi 50 miliardi di dollari, sono 42 miliardi di euro. Speriamo che il ministro degli esteri, lo dico senza battute, tedesco, insomma, abbia il suo peso, perché questa volta mi riferisco a Sigmar Gabriel. Sapete che il 20 avremo la data, avremo l'indicazione se Milano potrà essere, diciamo, scelta come sede dell'EMA, dell'Agenzia del Farmaco Europeo. Oggi Da questo punto di vista, Gabriele ha detto: la mia posizione personale è che Milano sia un'eccellente sede per l'EMA e credo che abbia buone chance al secondo turno, perché c'è una preselezione e poi si va al secondo turno, un po' come i mondiali di calcio, giusto per muovere il coltello nella piaga. Ha detto anche Gabriele: la Germania si candida a ospitare l'EMA con una sede a Bonn, quindi al primo turno rappresenterò la posizione del governo federale, ma se non verrà scelta, esprimo la mia posizione personale, credo che Milano sia un'eccellente sede. E quindi, siccome non è oggettivamente probabile che la Germania, che si sta già giocando la partita invece per la sede della parte finanziaria che si sposterà da Londra, dicevo, importante sapere che nel secondo giro dovesse essere confermato un appoggio tedesco, anche perché Bratislava, non sfugge a nessuno, gode dell'appoggio di Vienna, e molti vedono anche dietro Bratislava l'appoggio di Berlino. Veniamo all'Italia, mentre oggi Standard & Poor's ha detto che l'Italia è in ripresa ma la strada è ancora lunga, bene gli incentivi agli investimenti e quindi i preammortamenti e superammortamenti e anche l'andamento del credito, ma la produttività è lenta, ne parleremo fra pochissimo. Invece, su un altro tema di cui si sta discutendo in Italia, cosa fare con l'adeguamento automatico dell'innalzamento dell'età pensionabile come conseguenza dell'aumento dell'età della vita media, il tema per cui l'Istat ha certificato 5 mesi in più di vita e quindi si andrà in pensione a 67 anni nel 2019. Da questo punto di vista, oggi è intervenuto di nuovo il presidente dell'INPS Boeri, ha detto: attenzione, se si rompe il meccanismo che lega l'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita, si rischia di avere una spesa aggiuntiva per le pensioni da qui al 2040 di 140 miliardi. E Boeri ha anche aggiunto: questa è l'ipotesi se si fermasse l'età pensionabile a 67 anni e non si facessero più adeguamenti fino al 2040. E Boeri ha detto: pensiamo di più ai bambini nel mondo in cui ai bambini nel modo in cui si distribuisce la spesa sociale del paese, cioè pensate meno a chi deve andare in pensione e più al fardello che lasciate su chi andrà, chi è bambino adesso e lavorerà fra qualche anno. È un meccanismo che, se rotto, può portare il nostro paese a dover sobbarcarsi una spesa aggiuntiva per le pensioni che da qui al 2040 può essere stimata in 140 miliardi di euro. Allora credo che l'interrogativo che tutti i parlamentari si devono oggi porre quando dovranno pronunciarsi su questo emendamento è se si debba continuare in una scelta che vede progressivamente concentrarsi l'attenzione sulle persone che nel nostro paese hanno più di 65 anni e sull'incremento della spesa pensionistica, o se invece oggi si debba prestare direttamente attenzione alle famiglie con figli e ai minori all'interno del nostro paese. Ancora altri temi, mi riferisco da un lato alla Honeywell e dall'altro invece al via libera a whistleblowing, non molto importante. Devo rispondere a alcuni ascoltatori. Chi scrive forza Bratislava, faccio solo notare che l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, garantisce a Londra 800 posti letto a notte, perché ci sono i funzionari che si spostano, più tutto l'indotto che deriva dal fatto che, essendo l'Agenzia del Farmaco Europea, ha contatti continui con tutti gli esponenti delle case farmaceutiche a livello europeo, e vuol dire altri. Andate a vedere quello che è l'impatto su una città enormemente più grande di Milano come Londra, dell'Agenzia del Farmaco. Per cui, oltre che chiaramente creare anche competenze e posti di lavoro, parlo solo dell'aspetto alberghiero, dell'indotto che avrebbe, diciamo, del turismo da business, come possiamo chiamare, dei viaggi da business. Per cui dire forza Bratislava si connota già da solo con questo messaggio. Andiamo avanti invece sulla Honeywell, perché Il Ministero dello Sviluppo Economico, per voce del ministro Calenda, ha definito grave la decisione della Honeywell e ha detto di aver incontrato ieri, come previsto, i vertici del gruppo. Ha rinnovato la disponibilità piena del governo a sostenere i programmi di investimento in innovazione e ricerca per mantenere l'attività produttiva nello stabilimento di Atessa. I vertici della Honeywell però non hanno accolto la proposta del ministro e hanno comunicato la decisione di cessare l'attività, e Calenda la definisce una decisione estremamente grave. Che cosa è successo? La fabbrica in provincia di Chieti, a Lanciano, lo stabilimento di Atessa, verrà chiusa, produce turbo diesel, sono impiegati 420 lavoratori. L'azienda ha sostenuto che a conclusione della procedura di solidarietà, che scade il prossimo 2 aprile, verrà aperto il percorso di mobilità. I sindacati hanno convocato un'assemblea per le 18 di stasera e i lavoratori stanno attuando da 60 giorni il presidio permanente allo stabilimento. Honeywell è una multinazionale statunitense che opera in diversi settori, tra il settore industriale, aeronautico, automobilistico, capitalizza 112 miliardi di dollari, ha 130.000 dipendenti in giro per il mondo e un giro d'affari di circa 40 miliardi di dollari. L'incontro dei sindacati appunto avverrà alle 18, ma la nostra Livia Zancanera ha già raggiunto il segretario nazionale della UILM Gianluca Ficco. Ciò che è appena accaduto purtroppo conferma che avevamo visto bene ciò che la multinazionale intendeva fare. Noi non ci siamo finora arresi e non lo faremo stavolta. Di conseguenza proporremo ai lavoratori di continuare a provare fino all'ultimo minuto disponibile a salvare questa azienda e chiederemo naturalmente che il governo si faccia carico anche esso di quello che sta accadendo. L'azienda vuole chiudere e licenziare, questo è il percorso e il destino che la multinazionale ha preparato per i lavoratori di Atessa. Noi faremo tutto il possibile per cambiare questo destino. Avete già avuto una serie di incontri però con il ministro Calenda? Sì, il ministro Calenda ci ha sempre detto che ci avrebbe provato, che avrebbe organizzato un incontro. Credo che se il ministro Calenda chiederà ai vertici della multinazionale di incontrarci presso il Ministero in maniera esplicita e definitiva, credo, suppongo, confido che i vertici della multinazionale non potranno sottrarsi. Allora, adesso passiamo un secondo alle nuove norme sulla segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica, visto che venerdì avremo la classifica, quanto mai importante. Vedo molti messaggi sul tema delle pensioni e le dichiarazioni di Boeri. Allora, abbiamo già detto più volte che da un lato Boeri fa bene a ricordare l'impatto economico, perché in piena campagna elettorale tutti possono dire no, basta, blocchiamo adesso l'adeguamento delle pensioni. Dopodiché, immaginare che si vada avanti con questo adeguamento, cioè 67 anni, poi cosa diventano? 67 e mezzo, 68, cioè un paletto lo devi porre prima o poi, ma soprattutto lo devi porre per i lavori usuranti, per chi ha iniziato a lavorare e a fare questi lavori usuranti in età anche giovane. Ripeto, uno può immaginare che un docente universitario o un professore di scuola superiore insegna a 68 anni, dipende, sì, dalla materia, per carità. Non può immaginare che un autotrasportatore vada avanti a 67 anni e fa lavori prima, chi ha un lavoro pesante e usurante faccia lavori prima, né può immaginare che un'infermiera possa fare il turno di notte a 67 anni, a mio avviso. Cioè, ci sono lavori, e anche un insegnante elementare, non per dire che appunto bisognerebbe distinguere in maniera molto precisa, andando a vedere categoria per categoria, ma è più facile fare campagna elettorale. Allora, via libera la legge sulle cosiddette soffiate sul lavoro, che è definitivo, si chiama in inglese whistleblowing, vuol dire sostanzialmente chi segnala atti di corruzione illeciti dentro la sua azienda, reati o irregolarità, è prevista la tutela dell'identità e la garanzia di nessuna ritorsione sul lavoro o atti discriminatori. Per il presidente dell'ANA, che non, anche per il sottoscritto, è una norma di civiltà, anche perché abbiamo avuto casi che abbiamo raccontato anche noi nella nostra poco invidiabile classifica, di persone che dopo aver segnalato le irregolarità venivano o rimosse o isolate o obbligate a licenziarsi, insomma allontanate. Il caso più famoso che abbiamo raccontato qualche settimana fa è quello di Andrea Franzoso, che denunciò tutte le ruberie dell'allora presidente Achille che si è scusato, capito? Ma lì la macchina per il figlio, le multe per il figlio, abbiamo raccontato di tutto. Delle Ferrovie Nord, condannato in primo grado l'ex presidente, però lui perse il lavoro perché, come abbiamo raccontato, venne sempre più isolato e alla fine invitato sostanzialmente ad andarsene. Lo ha raggiunto la nostra Raffaella Calandra per un primo commento su quella che adesso legge. È una buona norma che però presenta alcune lacune. Il lavoratore del pubblico impiego ha una tutela certamente molto più forte, ha la possibilità di segnalare fatti illeciti di cui venga conoscenza sia al responsabile anticorruzione ma anche all'ANAC, all'autorità giudiziaria, ordinaria, contabile. Viceversa, il lavoratore di un'azienda privata lo può fare utilizzando soltanto i canali stabiliti, decisi dalla sua azienda. C'è anche un altro aspetto che è critico: il sistema di whistleblowing nel settore privato è inserito all'interno dei modelli organizzativi 231, che come sappiamo sono facoltativi, li hanno le grosse aziende, ma il tessuto produttivo italiano è fatto soprattutto di medio-piccole aziende. Oggi anche il suo percorso sarebbe stato più semplice, meno faticoso con questa nuova norma? Avrei avuto maggiori protezioni, però una cosa che voglio sottolineare è che questo è un primo passo, nel senso che la legge non impedirà ai colleghi di voltare le spalle a chi invece di farsi gli affari propri decide di denunciare. Un cambiamento vero ci sarà quando verrà dato un valore positivo a chi nell'interesse generale decide di non voltare lo sguardo altrove ma di denunciare. Allora, adesso andiamo sul meteo, la pubblicità e poi commentiamo la correzione europea, ma insomma i dubbi sulla strada che ha preso l'Italia, la risposta anche del ministro Padoan e soprattutto del Presidente del Consiglio Gentiloni, con però un debito che la Banca d'Italia dice anche è tornato a crescere a settembre rispetto ad agosto, 4 miliardi di euro in più. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. As I said, we will make decisions or adopt decisions next week. So, come ho detto, prenderemo delle decisioni la prossima settimana e non voglio anticipare nulla. Ma come si può vedere dai numeri, il fatto è che la situazione in Italia non sta migliorando. L'unica cosa che posso dire a nome mio è che tutti gli italiani dovrebbero sapere qual è la vera situazione economica in Italia. È una questione che riguarda il futuro della società del welfare in Italia e lo stato di salute della sua economia. Ma di questo ne saprete di più la prossima settimana. Questa appunto la frase di Katainen che ha creato insomma un po' di mal di pancia anche al nostro governo. Ieri il ministro Padoan non ha voluto rispondere, oggi ha risposto in maniera indiretta, ha detto... Ci aspettiamo un calo deciso del debito in un prossimo futuro grazie alla più alta crescita del PIL nominale. Gentiloni, Presidente del Consiglio, ha detto da ieri non siamo più il fanalino di coda in Europa. Bruxelles oggi è un po' corretto dicendo l'Italia sta vedendo una ripresa che si rafforza ma di fronte sfide persistenti. Qualcuno mi segnala di ICA che la legge sul whistleblowing l'ha proposta 5 Stelle, sì. Lo dico, dopodiché quando passa la legge non è che di solito ricordiamo chi l'ha proposta, ma comunque l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle. Adriana Ceretelli in collegamento da Bruxelles, Mitica, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. E grazie anche a Dino Pesole del Sole 24 Ore, non posso chiamarti Mitico, ma comunque sei... grazie. No, la Mitica è una. Certo. Allora, Dino, con te vorrei capire, detto con una battuta, perché sto debito continua a salire. Insomma, a settembre 2.283 miliardi, 4 miliardi e 4 in più rispetto ad agosto, c'era stato un ribasso di 21 miliardi e... la Banca d'Italia spiega che riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 16 miliardi e mezzo in più. Però, prima di tutto, con Adriana Ceretelli, Katainen cosa ha fatto ieri? Il poliziotto cattivo e oggi il portavoce della Commissione fa il poliziotto buono, cioè uno fa il duro e poi la commissione corregge, oppure ha fatto una fuga in avanti da solo, perché insomma la frase era molto dura, la situazione economica in Italia non migliora, per carità, siamo tutti convinti che il fatto che non basti questo 1,5%, forse 1,8%, però rispetto agli anni da cui veniamo qualcosa c'è. Adriana? No, Katainen è un po' un gagà dell'informazione, Gagainen. E quindi a volte, dopodiché è un rigorista come Dombrowski, e quindi da lui non si possono anche aspettare questo tipo di analisi. Diciamo la posizione Katainen in generale non è maggioritaria nella commissione. Detto questo, non c'è dubbio che la congiuntura migliora, la crescita migliora, quindi il rapporto, perché il debito è un rapporto rispetto al PIL, quindi questo in prospettiva ci dovrebbe aiutare. Resta che la montagna del debito è schiacciante e soprattutto in vista del quantitative easing che a poco si dissolverà in futuro, del fatto che se ci sarà una riforma dell'Eurozona, sia pur graduale, certamente il debito entrerà in gioco nella trattativa, non solo per quanto riguarda i bilanci delle banche e il suo tetto limite, ma anche dal punto di vista appunto della richiesta di una sua riduzione, che finora è stata sempre rimandata, ma che alla lunga non può durare se davvero si arriverà a un'evoluzione dell'Eurozona che possa in prospettiva portare alla famosa mutualizzazione dei rischi, alla quale l'Italia è la prima a tenere. Quindi insomma dei problemi strutturali ci sono, anche se ci sono stati dei miglioramenti innegabili. Katainen è la solita voce del rigore, come dicevo, ama apparire un po' sulla stampa e dunque deve dire un po' di cose provocatorie, in questo momento la neanche provocatorie, insomma diciamo dire la verità in una maniera un po' brutale, ma detto questo l'orientamento generale della Commissione e dello stesso Eurogruppo, perché non ci dimentichiamo che la Commissione propone ma è l'Eurogruppo che dispone, abbiamo visto in questi anni che certamente non è stato più il fautore di una austerità cieca, ma è fautore di una riforma, di riforme e di un'austerità in qualche modo flessibile, più alleggerita, più realistica, anche alla luce di una ripresa che sta tornando e che sarebbe stupido a questo punto soffocare. E questo per quello che riguarda la posizione dell'Unione Europea sul fronte, diciamo, dell'Italia. Quindi tu dici sì, un conto sono i personalismi e anche così mettersi un po' in evidenza, però non dovrebbero esserci grossi problemi. La preoccupazione però a livello europeo, Adriana, è più riferita al debito e all'andamento per gli anni prossimi, perché inutile girarci attorno, quest'anno faremo forse 1,8, che nessuno l'avrebbe previsto a inizio gennaio, la stima era più 1%. Vedo però che le previsioni sul 2018 e 2019 sono di calo, cioè si tornerà all'1,1 e 0,9. Adriana? Sì, sì, certo, nel senso che i miglioramenti della congiuntura ci sono. I miglioramenti nell'economia globale aiutano le esportazioni che tirano quindi la ripresa italiana. Ma il problema è che i problemi strutturali dell'economia italiana sono stati, abbiamo solo cominciato ad affrontarli, non siamo ancora entrati nel vivo delle riforme per davvero modernizzare l'economia italiana, renderla in grado di far fronte alle sfide globali, alla concorrenza globale. Abbiamo una domanda interna che continua a essere abbastanza debole e quindi ci sono dei problemi. Abbiamo un processo di deindustrializzazione, è inutile nasconderci, e non parlarne. Quindi voglio dire, noi tradizionalmente grande paese manifatturiero abbiamo dei problemi strutturali anche di questo tipo. Quindi certo si fanno molte cose, industria 4.0, tutto quel che si vuole, 4.0, la macchina italiana ha bisogno di ripartire, ma in una maniera strutturale. Vediamo che noi siamo felici perché facciamo l'1,8, la Germania fa il 2,8. e ha una domanda forte, quindi stiamo attenti anche a farci troppe illusioni sotto questo aspetto. Katainen non ha torto, dovrebbe evitare di parlare in modo sibillino, ma insomma abbiamo ancora un sacco di problemi da affrontare. Certo. La congiuntura che ci è favorevole ci aiuta a farlo. Speriamo che passate le elezioni si ricominci a, diciamo, a cercare di guardare all'interno di questa macchina ingolfata e di farla ripartire. Allora, Dino Pesole, nel ringraziare Adriana Ceretelli, ti chiedo un minuto di pazienza, vorrei capire perché invece il debito continua a aumentare, qual è la voce. So benissimo che se c'è un deficit, se ti escono più soldi di quelli che ti entrano, il tuo debito continua a aumentare, però esistono anche i risparmi sulle spese, non solo le entrate, esistono anche i costi, e vedere che il fabbisogno della pubblica amministrazione è quello che ha contribuito all'aumento del debito non mi fa felice, mi porta col pensiero direttamente alla classifica di venerdì. La tua analisi dopo il traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta, dunque, Dino Pesole, perché continua a aumentare questo debito e la responsabilità, come cerco di capire, dalla Banca d'Italia è del fabbisogno della pubblica amministrazione, quindi la spending dov'è? Infatti, no, allora andiamo per ordine. Intanto il debito, la Banca d'Italia fotografa la situazione del debito a settembre. Se noi andiamo a vedere il dato che ha comunicato il Ministero dell'Economia il 2 ottobre, e là si vede esattamente che il fabbisogno di cassa, vale a dire gli esborsi, che sono quelli materiali, fisici, le uscite che sono state messe in campo da gennaio a settembre, registrano un aumento di 10 miliardi rispetto allo scorso anno. E il motivo è sostanzialmente perché a giugno e agosto sono state effettuate erogazioni maggiori, si dice, per la tutela del risparmio del settore creditizio. Noi lo traduciamo gli aiuti che il governo ha messo in campo per sostenere le banche in crisi. Quindi questo è uno dei motivi. L'altro è evidentemente il fatto che nel nostro paese non si riesce a fare una riduzione, come dire, selettiva e ragionata della spesa, perché è vero che c'è stato una tendenza negli ultimi anni alla riduzione dell'incremento, se posso dire così, però non c'è stata una riduzione in termini reali, e dunque se noi andiamo a guardare l'andamento della spesa corrente, anche quella che non prevede gli interessi, che non dipendono da noi, e lì registriamo un costante aumento. Quindi da un lato il debito aumenta e continuerà ad aumentare in termini assoluti fino a che ci sarà il fabbisogno, e su questo nulla possiamo fare se non provare a ridurlo attraverso la maggiore crescita. Dall'altro qualcosa si può fare, non certo in questa legislatura ormai agli sgoccioli, ma con la prossima, ammesso che poi ci sarà un governo in grado di governare dopo le elezioni, bisogna mettere mano alla riduzione della spesa, e questo va fatto. Ci sono studi ormai molteplici, basta individuare i settori, e ci sono molte aree sulle quali si può intervenire, i cosiddetti sprechi genericamente indicati, ma che poi possono essere facilmente individuati. C'è comunque una larghissima fetta ancora della spesa per beni e servizi che è molto elevata, e quindi anche lì si può intervenire. E certamente poi c'è il grande capitolo dei più importanti centri di spesa, che continuano a essere ovviamente le pensioni, e come noi sappiamo, nonostante le riforme dalla Dini alla Fornero, le pensioni in rapporto al PIL sono indicate in aumento fino al 15,2% nei prossimi anni. Quindi vuol dire che comunque la spesa pensionistica aumenterà nonostante le riforme. E questo perché? È perché ci sono più pensionati e meno contributi degli attivi che sostengono quelle pensioni. E quindi qual è il problema? Bisogna incrementare gli occupati, se no non ne usciamo. Sì, incrementare chi paga i contributi, lì poi tutto il tema che aveva toccato anche Boeri, l'abbiamo fatto ascoltare, dell'attenzione quanto ci costerebbe bloccare l'adeguamento dell'età pensionabile. Ripeto, un paese serio non dice di no, perché non posso dire ai bambini adesso ti beccherai da qui al 2040 140 miliardi di costo in più, ma non dice neanche di sì in maniera apodittica, va a vedere categoria per categoria, caso per caso, è più complicato, è meno da slogan. Chi può arrivare fino a 68 anni? Io ci ho incluso anche i giornalisti. In realtà a noi ci prepensionano, per un altro discorso, ma dico, lavori che riesci a svolgere il docente universitario e lavori che non puoi fare a quell'età. Questo è il tema. Se, avendo però in questa ragione poi ben presente che c'è un impatto economico, non è che sia una legge solo per, come scrivono alcuni, per accanirsi contro i lavoratori. Questo per quello che riguarda l'andamento del deficit. Una domanda però che mi è rimasta in evasa, abbiamo un minuto, ma perché peggiorano i conti pubblici se abbiamo dei tassi di interesse a quasi zero e quindi risparmiamo parecchi miliardi ogni volta che dobbiamo rifinanziare il nostro debito? Cioè questa cosa qui non ce l'avremo più fra un anno, Dino. Allora, la domanda è interessante. In realtà, se noi andiamo a guardare il bilancio dello Stato, vediamo che la spesa in conti interessi, grazie all'effetto Draghi, effetto BCE, si è notevolmente ridotta. Eravamo attorno agli 80 miliardi qualche anno fa, adesso siamo scesi, siamo a 64, 65. Quindi il beneficio, e lo vediamo nella riduzione del deficit, si è ridotto per questo, non perché siamo intervenuti altrimenti. E poi c'è la cosiddetta spesa e deficit che riguarda però la spesa primaria, quindi lasciamo perdere gli interessi, che peraltro dipendono poco da noi, e sulla spesa primaria non riusciamo a intervenire in modo efficace. E la spesa primaria è quella di cui abbiamo parlato finora. Dico perché deve essere chiaro a tutti, a maggior ragione ai partiti che si apprestano alla campagna elettorale, che voglio dire, se, al di là di tutta questa retorica sulla spending review, se tu non tocchi adesso la spesa primaria, non riesci a invertirla, fra un po' io non voglio una maggiore spesa, io voglio spese in investimenti, sì, di carattere europeo, la distinzione tra deficit e investimento, e non voglio una maggiore spesa della pubblica amministrazione. Abbiamo fatto intere puntate sulla spending review di Cottarelli e poi su quello che si poteva fare, su quello che non si è ancora fatto, su quanto stia andando a rilento la spending review. Dico solo che se fra un anno e mezzo dovesse ripartire i tassi, due anni, tu non avrai più questo beneficio. Quindi attenzione a pensare che questa sia la situazione normale. È una situazione eccezionale, i tedeschi sono molto nervosi perché i tassi sono a zero, ma soprattutto quando i titoli di Stato italiani vengono comprati dalla BCE e questo porta il rendimento a zero, addirittura in alcuni casi in negativo. Grazie Dino Pesole, dopo GR24 parliamo invece di mercati, del caso Astaldi soprattutto, e anche da questo punto di vista di quello che è il mantra della produttività, perché insomma l'Istat ci dice che dopo anni di crescita dal 2009-2014 anche 2015, nel 2016 è calata la produttività del lavoro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Qualcuno mi scrive di David Rossi. Guardate che abbiamo seguito anche noi con interesse l'inchiesta delle Iene. È da sempre, l'abbiamo detto in tempi non sospetti, è sempre stata una morte molto molto sospetta. Poi qui mi fermo perché non faccio il magistrato. Però c'è qualcosa di sicuramente non chiaro, così come molto frettolosa fu la chiusura dell'indagine, però altro io non sono in grado di dire. A chi mi scrive invece sul tema delle pensioni, ma un insegnante di sostegno fino a 67-68 anni seguendo ragazzini di 15-16, no, non è possibile, sono d'accordo, ma neanche un insegnante diciamo elementare, cioè, abbiamo parlato di altre professioni, bisognerebbe distinguere tra i ruoli, ma anche il medico, un chirurgo magari forse a 68 anni è un po' tanto, anche se hanno, se sono professori universitari, hanno un'altra età. La docenza si può fare, no? Ci sono esimi professori che hanno dipende su che materia, cioè, va fatta un'operazione caso per caso se si vuole essere un paese serio. Comunque andiamo sulla borsa, dove ci sono due temi oggi. Uno si chiama Astaldi, ma ne parleremo fra un attimo, e l'altro si chiama Sole 24 Ore. Allora, la borsa nel complesso ha perso lo 0,60%, Milano, Parigi meno 0,30%, Francoforte meno 0,44%, Londra meno 0,50%, Dow Jones meno 0,40%. Tra i titoli segnalo Leonardo più 4,46%, Banco BPM più 2,40%, Biper Banca più 2%, Telecom Italia più 1,70%, Unipol più 1,60%, Unipol Sai più 1,40%, UbiBanca più 1%. Il fronte opposto di chi perde tra chi ha maggiore capitalizzazione vede Ferragamo da un lato perdere il 4%, Campari meno 3%, Buzzi Unice meno 2,5% come Case New Holland, CNH, Exor meno 2,40%, Terna meno 2,20%, Recordati meno 2%, Eni meno 1,80% come Saipem e Snam. Allora, Ferragamo con i conti ieri che evidentemente non sono piaciuti. Vorrei commentare Ferragamo e però anche Monte dei Paschi di Siena e poi arrivare al Sole 24 Ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera, sì, per quanto riguarda Ferragamo oggi si è distinta sin dalle prime battute andando male. E il mercato non ha apprezzato i conti che sono stati diffusi ieri, ricordiamo a borsa chiusa, e in particolare appunto nel terzo trimestre del 2017 la società ha registrato un fatturato in calo del 5,5% e anche l'utile è stato abbastanza deludente, in ribasso addirittura dell'82,4% e inferiore alle stime degli analisti. Come ha detto più volte Poletto, l'amministratore delegato, per Ferragamo va avanti il periodo di transizione, ma probabilmente gli analisti pensavano che durasse un po' meno, che ci fossero comunque segnali di ripresa che in verità per adesso non si sono visti. Si tratta comunque di un'azienda che in 9 mesi ha fatturato ben 1 miliardo di euro. Per quanto riguarda le banche, oggi sono rimbalzate proprio sul finale, sono state le banche diciamo a permettere a Piazza Affari di arginare le perdite. Non è tuttavia rimbalzata Banca MPS, che sul finale ha perso quasi il 5%, il 4,9% per l'esattezza, ormai va male da più sedute. Del resto va messo in conto che le azioni sono detenute anche da numerosi fondi obbligazionari che sono un po' costretti a vendere detenendo fondamentalmente dei bond. E poi tra le banche va segnalato che è andata molto male anche Banca Carige, ha fatto addirittura meno 11% nell'attesa di conoscere il prezzo per le azioni di nuova emissione, deve essere deciso oggi, aspettiamo il comunicato. Le azioni di nuova emissione relative ovviamente all'aumento di capitale. E questo per quello che riguarda complessivamente il mercato. Veniamo ai migliori e peggiori, e qui parliamo anche di noi. Allora, il migliore è RCS Media Group più 6,70%, Elen più 5,80%, Leonardo più 4,46%, come ricordavamo in recupero dopo i cali pesanti dei giorni scorsi. Airbus, per la mega commessa, la più grande della sua storia, guadagna il 3,30%. Invece, i peggiori: Astaldi meno 32,39%, sospeso anche per eccesso di ribasso, e ne parliamo tra un attimo. Tiscali meno 20%, De'Longhi meno 13%, ITWay meno 11% e il Sole 24 Ore meno 26,12%. De'Longhi ieri ha collocato alcune azioni sul mercato, il titolo evidentemente ha sofferto, il Sole 24 Ore. Allora, siccome siamo sotto aumento di capitale, siamo alla vigilia della chiusura dell'aumento di capitale da 50 milioni di euro, il titolo è stato anche congelato per eccesso di ribasso, adesso l'ultimo prezzo è appunto a 0,95 euro per azione, meno 26,12%. Se ho ben capito, il prezzo è sceso sotto il livello dell'aumento di capitale per quello che riguarda il titolo in borsa. I diritti di opzione che hanno il valore iniziale di 2,13 euro al termine del periodo di negoziazione di venerdì scorso hanno chiuso a 0,38 euro. Dopo lo stacco del diritto di opzione, il valore dell'azione è stato rettificato in 1,494 euro, con una perdita pari a circa un terzo del titolo. I diritti di opzione non esercitati entro domani verranno comunque offerti in borsa. Che cosa è successo e che cosa si profila, visto che l'aumento di capitale è comunque garantito per la parte inoptata Confindustria ha sottoscritto l'aumento per 30 milioni di euro, la restante parte, 20 milioni, è garantita da banca, da un consorzio fatto da Banca IMI, cioè Banca Intesa e Banca Across. Prego. Sì, oggi il titolo è andato particolarmente male, il secondo che segna la seconda peggiore performance di tutta Piazza Affari, ha fatto peggio solamente a Staldi, e va detto semmai che proprio nel periodo dell'aumento di capitale le azioni hanno perso quota continuamente. Che dire, cioè, ovviamente nel momento degli aumenti di capitale le azioni tendono sempre a perdere valore, vedremo cosa succederà a questo punto in futuro. E quale sarà la parte eventualmente inoptata su cui c'è l'impegno del consorzio di garanzia? È chiaro che se non tutto l'aumento di capitale venisse sottoscritto, questo consorzio di garanzia, come d'accordo, dovrebbe accollarsi una parte dell'aumento e diventare azionista nel caso del gruppo Sole 24 Ore. L'ultima chiusura prima dell'aumento di capitale era 3,62 euro. Grazie anche a Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Restiamo in tema di borsa dopo il traffico, perché appunto l'altro caso si chiama Astaldi, anche qui un aumento di capitale in parte, una ripatrimonializzazione in tutto da 400 milioni, 200 come aumento di capitale, 200 sotto forma di altri strumenti finanziari. Il titolo in borsa vale quasi la metà dell'aumento che chiede, dei soldi che deve cercare, 227 milioni di euro. Ha pesato moltissimo, ahimè, il Venezuela. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, Astaldi, dicevamo, ha sofferto molto le partecipazioni in Venezuela. Astaldi è uno dei principali gruppi di costruzione in Italia e in Europa, è tra i primi 25 a livello europeo. Ancora, settore costruzioni e infrastrutture, ha ricavi per 3 miliardi di euro, un portafoglio di ordini da 27 miliardi di euro, circa 11.500 dipendenti. L'anno scorso registrò 55 milioni di euro di utile, quest'anno perdite per 88 milioni di euro. Laura Galvagni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Che è successo? Ma è successo che ieri il consiglio d'amministrazione della società ha preso in esame un'operazione complessiva di rafforzamento patrimoniale da 400 milioni di euro. In realtà la delibera del consiglio d'amministrazione è arrivata dopo una serie di indiscrezioni che parlavano della necessità di una nuova iniezione di liquidità nella società, e quindi il mercato già da diverse sedute stava scontando questa ipotesi. Ieri è arrivata la conferma però è arrivata con una cifra più rotonda di quello che il mercato si aspettava, nel senso che dopo le indiscrezioni circolate sulla stampa, anche sul Sole 24 Ore, la società aveva confermato di avere allo studio un aumento di capitale da 200 milioni, ieri il CDA però ha deliberato un'operazione combinata, quindi aumento di capitale da 200 milioni più l'emissione di strumenti finanziari per altri 200 milioni. In realtà, sentendo gli operatori, effettivamente la necessità di capitale dell'azienda non era distante da quella cifra che è stata poi deliberata dal Consiglio d'amministrazione, perché ha sicuramente inciso il tema Venezuela, ma c'era già un tema di debito che la società stava affrontando da tempo e che il mercato si aspettava che prima o poi sarebbe stato gestito in maniera più radicale. E quindi le due cose combinate assieme hanno portato a questa decisione. Decisione che, come hai fatto notare tu, comporta sostanzialmente una richiesta di capitali per circa 400 milioni di euro, cioè il doppio rispetto a quello che capitalizza ora Astaldi, che tuttavia prima dell'avvio di tutta questa vicenda valeva in borsa quasi 600 milioni, 570 milioni di euro. Sì, detta così però sembrerebbe un problema soprattutto di quello che è successo in Venezuela. Allora, perché sì, in parte la svalutazione di 230 milioni verso in parte sicuramente è inciso in Venezuela, nel senso che probabilmente se no l'aumento di capitale poteva anche essere meno rotondo. Loro hanno deciso ieri di svalutare i crediti e parte dei lavori che hanno in Venezuela, hanno deciso di svalutarli per 230 milioni, quindi gli rimangono attività nel paese per circa 200 milioni di euro, e quindi con questo rafforzamento patrimoniale vanno sostanzialmente a coprire buona parte, tutta la parte di minor valore che loro contano di recuperare nel paese. Loro hanno, come dicevi tu prima, un portafoglio ordini di circa 26 miliardi e hanno lavori residui in Venezuela per 890 milioni di euro. È evidente che l'attuale situazione del paese li fa immaginare che difficilmente potranno portare a compimento i valori nei tempi, nei modi e con i ricavi che prima si aspettavano. Allora, su questo vedo che qualcuno mi scrive: oh, che diplomazia, quando si parla del Sole 24 Ore lei è uno schiavo, vergogna. Guardi, abbiamo detto, no, non ti preoccupare, è rivolto a me. Abbiamo detto con l'onorevole Micheli che cosa è successo, il valore di collocamento, il valore del titolo prima dell'aumento di capitale a 3,6 euro, la rettifica, se uno mette assieme i diritti e il valore del titolo, a 1,49 euro, e quindi quasi un terzo, vale quasi un terzo rispetto al pre-aumento di capitale, e abbiamo spiegato come funziona l'aumento di capitale: 50 milioni, se non fosse 30 già sottoscritti da Confindustria, i 20 se non dovessero essere sottoscritti o una parte, c'è il consorzio di garanzia, spiegando che a quel punto entrerebbe nel capitale del titolo, chiaramente della società, il consorzio di garanzia di Banca IMI e Banca Akros, e che il valore del titolo oggi è sceso sotto il valore dell'aumento di capitale. Che cosa dovevo dire di più? Tanto manca pochi giorni e poi commenteremo come è andato l'aumento di capitale. Grazie intanto a chiaramente Laura Galvagni. Ultimo tema, in realtà, siccome oggi l'Istat ci fa notare che la produttività italiana, la produttività del lavoro, dopo essere cresciuta dal 2009 fino al 2015, è improvvisamente scesa nel 2016 dell'1%, pesa il ribasso della produttività del lavoro e siamo all'ultimo posto in Europa come produttività. Adesso prendiamo atto di queste cifre. Io vorrei capire, se ce la faccio una volta per tutte, che cosa è la, non è una battuta, che cosa è la produttività, e a questo punto perché scende una produttività del lavoro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E lo vorrei fare con il direttore della Fondazione ADAPT, Centro Studi sul Lavoro e Occupazione, fondata da Marco Biagi, Francesco Seghezzi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, la produttività, insomma, uno va, cerca la definizione, misura le quantità di cose che vengono prodotte in un paese in un anno in rapporto al numero di ore lavorate. Allora, e va a vedere, diciamo, il valore aggiunto come effetto del progresso tecnico, tecnologico, dei miglioramenti nell'efficienza e quant'altro. Di solito si dice che sono due i motivi che frenano la produttività in Italia: l'insufficienza dell'introduzione di tecnologie, quindi l'importante piano Industria 4.0, e una specializzazione in settori meno trainanti, penso alla moda, al turismo, all'agroalimentare, sul fronte produttività come la meccanica. È così, e soprattutto lei si è fatta un'idea del perché sia calata l'anno scorso? Perché uno guarda il dato del PIL e dice: ma com'è possibile? L'Italia ha iniziato a migliorare l'anno scorso e cala la produttività. Prego, Seghezzi. È così come dice lei, nel senso che la descrizione è giusta: la produttività è il rapporto tra il valore aggiunto, quindi quello che viene prodotto, e le ore lavorate per produrlo. Quindi quando la produttività si abbassa, o se diminuisce il valore aggiunto o se aumentano le ore lavorate più di quanto aumenti il valore aggiunto. E in effetti, se noi vediamo i dati italiani, a fronte di un valore aggiunto, parliamo di produttività del lavoro in questo caso, certo, a fronte di un valore aggiunto che aumenta nel 2016 dello 0,9%, le ore lavorate aumentano dell'1,9%, quindi questo fa sì poi che il dato complessivo sia negativo. Ma perché nel 2016 è successo così? Tra le tante spiegazioni, la produttività è un dato molto complesso da individuare. Tra le situazioni, le motivazioni più macro che possiamo individuare, c'è sicuramente l'aumento molto forte degli occupati che c'è stato tra la seconda metà del 2015 e il 2016 dato dagli incentivi per l'occupazione. In tanti osservatori avevano detto che questo avrebbe potuto creare dei problemi di produttività, perché se sono state assunte più persone di quelle necessarie, perché probabilmente sono state anticipate alcune assunzioni essendoci gli incentivi, questo può causare poi un calo della produttività, perché se sono assunzioni date dagli incentivi, spinte dagli incentivi e non effettivamente dalle esigenze di produzione, e quindi che non vanno poi a sposarsi con forti crescite del valore aggiunto, poi però mi scusi Seghezzi, ma quale imprenditore assume solo per non pagare i contributi? Comunque devo pagare il dipendente, se lei si riferisce alla decontribuzione, ma io non è che assumo solo perché pago meno contributi, sarebbe come fare un acquisto solo perché posso scaricare una parte sulle tasse, ma compro qualcosa perché mi serve, comunque lo devo pagare. Sicuramente, è possibile che sia stato un effetto anticipatore, ossia a fronte della possibilità di assumere e dell'idea che nel prossimo periodo ci saranno delle necessità in più, eccetera, uno approfitta e assume un po' prima rispetto a quando avrebbe assunto, quindi non è detto che questo dato sia destinato a durare, ma può essere un dato intermedio rispetto poi a delle esigenze che si avverano, e questo può portare poi a un aumento della produttività. Teniamo conto che questa è produttività del lavoro, rispetto poi all'altro fattore, quello del capitale, a cui faceva riferimento lei prima. Probabilmente quest'anno, se il capitale poi verrà utilizzato al meglio, con i risultati che stiamo vedendo del piano Industria 4.0, lei si attende che ci sia un miglioramento? È ipotizzabile un miglioramento, che poi per essere un miglioramento che va a coprire anche la produttività del lavoro, dovremo giocare tutto il tema della formazione delle competenze, che è l'altro tassello che la legge di stabilità nel prossimo anno introdurremo. Grazie anche per questa spiegazione su un termine che delle volte è quasi esoterico. Grazie a Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione Adapt, appunto, fondata da Marco Biagi. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.